Специальное техническое обслуживание. Автономных водителей. Рыбаки. Супер-супер-супер. No tiene densidad, si no atrapo yo cualquier cosa, se apagó, le pasó una lambía, pero como eso es metal con metal, que oye, puede hacerlo, ¿para cuánto? ¿Para 10? ¿Para qué? ¿Para 10? ¿Para 5 vatios? Eso es, yo digo que eso es mucho para asegurador de ese radio. Sí, avanti. Latitudine 40 gradi 12 primi 59 virgola 43. Chi è su 10 avanti? Hola. E perché sei qua buonasera? Non c'è altro nessuno. Sto con pochi noti, un po' di città. E io ero su 23, ti avanzo sempre. Allora tu riesci a provare su 10 e già sei qua. Perché in genere li trovo quasi tutti qua, li trovo Gianmari. Buonasera. E allora, cosa ti racconti? Cosa vuoi che ti racconti? So che rientro da Anzura, mi accompagna il giovincello in palestra. Ha già gettato i chili e aveva secondo un rato a casa. Più che così? Ma solo sei in questo carattere. E allora, non c'era nessuno. Ero in agguato, all'ascolto, se entrava qualcuno. Non c'è nessuno, tutti in giro sono. Davvero, o sono usciti a mangiarsi la pizza. Cosa ne gioco? Aspetta, c'è uno basso, che quasi non intendo. Chi è che sta borbottando? Andiamo bene, andiamo. Beh, uno basso, Gianmarino, che ne manco un accorto. Aspetta. Non ho capito, tu. Ho detto che c'è uno basso, che manco l'ascolto, ci sta chiamando. Aspetta un attimino, che vedo. Avanti, chi è che sta chiamando? Oi, se non ti sollevo a parlare più. Ma dai che ti ascolto, gira. C'è radio 00 Bru più. Santiago non ce ne va vita. Forse 00, e figurati. Cata, siamo un po' bad, massi tutti e due, così è, oggi la propagazione non ci aiuta. Avanti Giomari, è da Porto Torres, ma non ha corto bene. Un secondo, che ha suonato, un secondo, rientro subito. Sono qua, Salvatore da Sassari. No, da Zosu no, Sassari. Adesso mi ascolti? Purtroppo la propagazione non ci ascoltano. Purtroppo è così. Non sono a Sorso, sono a Sassari. SS, Sassari. E sono, si può dire, tra Latte Dolce e Santa Maria di Pisa. Con radio bassa, il segnale quasi zero. Otto. E io Gianmarino. C'è mia figlia, dai. ci sentiamo domani eventualmente, to. Là, grazie, buon mezzo della chiacchierata. Ci sentiamo, to. Ok, Gian Maria, alle prossime. Ciao, Gian Maria, stammi bene. Ma mi sa che è chiuso. Sono d'ascolto io, manco lui. Sarà più forte di me. Quindi, non lo so. Lillo, butta giù la pasta che è pronta.